Tempo piovoso, mercoledì 30 marzo. Era la prima giornata di pioggia del viaggio. Durante il soggiorno delle oche al lago Vombe il tempo si era mantenuto sul bello, ma quando ripresero la rotta del nord cominciò a piovere e Nils dovette starsene seduto per ore sul collo dell'ocone, zuppo e tremante di freddo. Al mattino il cielo era chiaro e sereno. Le oche erano salite ad alta quota, regolarmente, senza fretta e in ordine perfetto. H in testa, le altre in due file oblique. Incapaci di starsene zitte, strillavano di continuo sul ritmo del loro remeggiare. Dove sei? Sono qui, dove sei? Sono qui. Il viaggio era monotono, al punto che le nuvole erano per Nils un piacevole diversivo, e ai primi rovesci di pioggia nei boschi, sui prati, nei campi, gli uccelletti cominciarono a mandar trilli di gioia. Ecco la pioggia! La pioggia porta la primavera porta i fiori e le foglie verdi, i fiori e le foglie verdi ci danno larve e insetti, larve e insetti sono il nostro cibo, cibo buono e abbondante, al mondo non ce n'è di meglio. Anche le oche selvatiche si rallegravano della pioggia primaverile che ridestava le piante dal sonno e scioglieva il ghiaccio sui laghi. Proprio impossibile per loro starsene tranquille senza schiamazzare, allegre. E passando sui vasti campi di patate, così numerosi nella regione di Christianstadt, che erano ancora nudi e neri, gridavano: svegliatevi e rendetevi utili! Ecco che arriva quella che vi ridesta, avete oziato abbastanza! E vedendo degli uomini che fuggivano per mettersi al riparo dalla pioggia, berciarono: perché scappate? Non vedete che piove pane e focaccia? Pane e focaccia? E così avevano continuato durante i primi acquazzoni. Ma siccome continuò a piovere tutto il pomeriggio, le oche si spazientirono e gridarono ai boschi assetati attorno al lago Yvesieux: non ne avete abbastanza? Il cielo si faceva sempre più cupo e il sole si nascose così bene che nessuno avrebbe potuto indovinare dove si fosse cacciato. La pioggia martellava pesantemente le ali delle oche, insinuandosi attraverso le penne esterne ben intrise di grasso fino a bagnarne la pelle. Terra, laghi, monti, boschi, foreste si confondevano in un informe caos. I punti di riferimento erano ormai invisibili. Il volo si faceva via via più lento, cessarono le grida gioiose e Nils sentiva sempre più freddo. Ma il ragazzino non si perse d'animo. Neppure quando, venuta la sera, lo stormo atterrò su un piccolo pino rachitico nel mezzo di una vasta palude dove tutto era umido e freddo. Si rifugiò sotto l'ala dell'ocone, ma non poteva prendere sonno per il freddo. Pensava agli uomini ai quali non manca nessuna comodità, desiderava ardentemente ritornare tra loro, sedersi un istante accanto al fuoco, mangiare un boccone. Avrebbe potuto tornare dalle oche prima che spuntasse il sole. Uscì da sotto l'ala di Morten, si lasciò scivolare a terra senza svegliare nessuno. Non sapeva assolutamente dove si trovasse, se nella Scania, nello Småland o nel Blekinge. Giunto al limite della palude, scorse le luci di un grosso borgo e vi si avviò. Un sentiero lo condusse a una strada maestra fiancheggiata da alberi e case addossate le une alle altre. Erano di legno, riccamente decorate, quasi tutte con frontoni scolpiti e verande a vetri colorati. Le pareti erano dipinte di colori tenui, le finestre verniciate di rosso, turchino o verde. Mentre seguiva la strada, guardando le case, Nils udiva la gente ridere e chiacchierare nelle stanze calde. Non distingueva le parole, ma era lieto di udire voci umane. E si chiedeva: chissà cosa direbbero se bussassi e li pregassi di lasciarmi entrare. Decise di fare prima un giro per la borgata e quindi di domandare cibo e ricovero. Passò davanti a una casa con un balcone, la cui finestra si aprì e attraverso le tendine leggere Nils vide brillare una lampada gialla. Uscì una bella ragazza che si chinò sul parapetto. «Piove, tra poco sarà primavera», annunciò. Nils avvertì una strana angoscia e fu lì per mettersi a piangere, avvertendo tutta la pena di essere bandito dalla società umana. Transitò poi davanti a un magazzino di macchine agricole. Fuori dall'uscio si vedeva una seminatrice meccanica rossa e Nils si fermò a contemplarla, si arrampicò sul seggiolino, fece schioccare la lingua come per incitare i cavalli. Che gioia essere un uomo e guidare una così bella macchina nel campo di grano! Per un istante aveva dimenticato la propria condizione presente, ma quasi subito se ne ricordò e saltò a terra. A quante cose non deve rinunciare colui che vive sempre tra gli animali. Sì, gli uomini erano dotati di straordinarie facoltà. Eccolo davanti all'ufficio postale e pensò ai giornali che quotidianamente recano notizie di ogni parte del mondo. Vide la farmacia e la casa del medico. Si disse che gli uomini erano così potenti da lottare contro la malattia e la morte. Giunse alla chiesa e pensò che gli uomini l'avevano eretta per sentirvi parlare di un altro mondo, della resurrezione, della vita eterna. Più procedeva, più amava gli uomini e più lo assaliva il timore di non recuperare la forma primitiva. Come fare per ridiventare un ragazzo? Salì una scala, si sedette sotto i torrenti di pioggia e cominciò a riflettere. Lì rimase 1-2 ore, talmente immerso nei propri pensieri da avere la fronte solcata da rughe. D'un tratto vide un grosso gufo planare e posarsi su un albero della strada. Una civetta nascosta sotto una grondaia s'agitò e gridò: «Civit! Civit! Bentornato, gufo, sei stato bene?» «Grazie, civetta, molto bene. Non è accaduto nulla di nuovo durante la mia assenza?» «Qui a Blacking niente, gufo, ma nella Scania un ragazzo è stato stregato da un coboldo, è diventato piccolo come uno scoiattolo e adesso sta viaggiando verso la Lapponia con un'oca domestica.» «Strano, molto strano. E potrà mai ridiventare ragazzo?» «Questo è un segreto, gufo, ma voglio comunque confidartelo. Ha detto il coboldo che se il ragazzo veglia sull'ocone lo riconduce sano e salvo a casa e...» «Che cosa, civetta, che cosa?» «Vola qui da me sul campanile, gufo, e te lo dirò, ho paura che qualcuno dalla strada ci oda.» Gli uccelli notturni volarono via e Nils lanciò il berretto in aria. «Se veglio sull'ocone e lo riporto sano e salvo, ridiventerò un uomo! Urrà, urrà, ridiventerò un uomo!» Strano che nelle case non si fossero accorti di lui, tanto forte aveva gridato, e a gambe levate tornò a raggiungere le oche nella palude. La valle del fiume Ronneby. Venerdì 1 aprile. Né smirre né le oche credevano di incontrarsi mai più dopo aver lasciato la Scania, ma abbiamo visto che le oche avevano puntato verso la zona di Blacking, proprio dove si era rifugiato Smirre il volpone. Un pomeriggio, mentre gironzolava in una landa desolata non lontana dal fiume Ronneby, il volpone scorse uno stormo d'oche in cielo, notò che una era bianca e seppe con chi aveva a che fare. Le vide volare verso est, fin sopra il fiume, poi cambiare direzione seguendo la corrente e comprese che cercavano un ricovero per la notte sulla riva, chissà che non riuscisse a catturarne una senza troppa fatica. Ma ben presto dovette arrendersi all'evidenza, il luogo scelto dalle oche non era accessibile a un quadrupede. Il Ronneby non è un grande fiume, ma è celebre per le sue rive pittoresche, essendosi aperto la via tra aspri dirupi coperti di macchioni e arbusti, e non c'è nulla di più piacevole che remare sulle sue acque scure un giorno d'estate, ammirando tutta l'esuberante verzura che s'aggrappa alle rocce. Ma era ancora inverno. La primavera stava appena rinascendo, gli alberi erano nudi, nessuno ammirava le bellezze della riviera. Le oche ritennero che il posto migliore fosse una striscia di sabbia larga appena quanto bastava per posarvisi. Davanti a loro il fiume muggiva, ingrossato dal disgelo, dietro sorgevano i massi inaccessibili, semi nascosti dai brulli rami. Si addormentarono immediatamente, ma Nils non riusciva a chiudere occhio. Dall'alto della rupe, Smirre allungava il collo, vedeva le oche e si diceva che era inutile far loro la posta, impossibile scendere per un pendio così ripido, impossibile nuotare nel fiume gonfio. Ma, come tutte le volpi, non rinunciava facilmente alla preda. Cercò dunque una roccia sporgente e si mise in agguato. Intanto, rimuginando su tutto il male che a suo giudizio gli era stato fatto dalle oche. Colpa loro se era stato bandito dalla ricca Scania, colpa loro se era costretto a vivere nel povero Blacking, e più rifletteva, più l'odio gli cresceva in cuore. A un tratto udì un fruscio sopra un pino vicinissimo, volse lo sguardo e vide scivolare dal tronco uno scoiattolo inseguito da una martora. Né l'uno né l'altro si erano accorti di lui acquattato ad assistere alla caccia che proseguiva di albero in albero. Lo scoiattolo si arrampicava sui tronchi, ne guizzava giù leggero come se volasse, ma anche la martora, sebbene più pesante, correva sugli alberi quasi fossero i sentieri della foresta. Ah, se potessi arrampicarmi io a quel modo, pensò Smirre, le oche non dormirebbero tranquille. Non appena lo scoiattolo fu catturato, Smirre andò verso la martora e si fermò a qualche passo da lei per mostrarle che non aveva l'intenzione di sottrarle la preda. Le rivolse le gentili parole che sapeva coniare all'occorrenza, ma la martora, stupenda con quel suo corpo lungo e snello, la testa piccola e il morbido pelo, rispose appena da quella selvaggia che era in realtà. «Mi meraviglio che t'accontenti di scoiattoli», riprese Smirre. «Saprei condurti io a una preda migliore». E siccome la martora si limitava a fissarlo sogghignando, soggiunse: Non hai visto le oche sulla riva qua sotto? Non sei capace di calarti per un pendio? Questa volta la risposta non si fece attendere. La martora, inarcando il dorso e arruffando il pelo, d'un balzo gli fu vicina. Oh, che selvatiche! Soffiò. Dimmi subito dove sono, o ti salto alla gola. Piano! Piano, ricordati che sono grande due volte te e non desidero di meglio che mostrarti le oche. Un istante dopo, la martora scendeva da un arbusto all'altro, di roccia in roccia, e Smirre pensava: questo bel cacciatore dei boschi ha il cuore più duro di tutti gli esseri viventi. Che brutto risveglio per le oche! Ma proprio quando sperava di udire il grido di agonia delle oche, vide la martora cadere da un ramo e precipitare nel fiume. E poi si udì un grande sbattere di ali vigorose e le oche s'avventarono in cielo in precipitosa fuga. Smirre fu lì lì per seguirle, ma ad averla vinta fu la curiosità di sapere come mai la martora fosse finita in acqua. Quando tornò da lui, gocciolante e intenta a fregarsi il muso con le zampe, le disse con tono sprezzante: Me l'immaginavo, sei proprio una pasticciona. Non lo sono affatto e non è il caso di farmi la predica, rimbeccò la martora. Ero già sull'ultimo ramo e stavo calcolando a quante oche potevo fare la festa quando un ometto non più grande di uno scoiattolo mi ha tirato un sasso e mi ha colpito in testa con tanta forza da farmi precipitare e... Ma non c'era più nessuno ad ascoltarla. Smirre si era già lanciato all'inseguimento delle oche. H intanto era volata verso sud in cerca di un altro rifugio. C'era ancora un barlume di luce, la luna stava per spuntare e poi la vecchia oca conosceva perfettamente il paese e seguiva il corso del fiume che serpeggiava lucente nel chiarore crepuscolare. Le oche arrivarono alla Diupa Force, la grande cascata che precipita da uno stretto crepaccio, frangendosi in una miriade di gocce, schiuma e nebbia. Al piede della cascata emergevano alcuni massi attorno ai quali l'acqua vorticava. E fu qui che H e le sue compagne si posarono. Il luogo era più sicuro per la notte. Non lo sarebbe stato di giorno perché il bosco è battuto da gente che sale ad ammirare la bellezza della celebre cascata e d'altro canto era pericoloso dormire sui macigni lisci e umidi nel bel mezzo di un torrente tumultuoso. D'altro canto bisognava accontentarsi, lì almeno erano al sicuro dai predatori. Le oche si addormentarono di colpo, ma Nils, troppo teso, si sedette accanto a loro, vegliando su Morten. Ben presto arrivò Smirre, tutto trafelato, scorse le oche e per la seconda volta dovette ammettere che non poteva acciuffarle. Provò un profondo avvilimento, ne andava del suo onore di cacciatore, ma proprio in quella vide uscire dall'acqua una lontra con un pesce in bocca e le si avvicinò, fermandosi a qualche passo per mostrarle che non intendeva derubarla della preda. Sei una grande cacciatrice, esordì. Strano però che ti accontenti di pesci quando i massi laggiù sono coperti di oche. La lontra non volse neppure il capo a guardarlo. Era una vagabonda come tutte le lontre. Più volte aveva pescato nel vombe, conosceva bene Smirre. Li so a memoria i tuoi trucchi per impadronirti di una trota, borbottò. Ah, sei tu, Gripe, disse Smirre, ben contento di riconoscere quella che sapeva essere una formidabile nuotatrice. Non mi meraviglio che non le guardi neppure le oche, visto che non sei capace di arrivare fin da loro. La lontra aveva le zampe palmate, una coda dura, piatta e solida quanto un remo, la pelliccia impermeabile e non vuole lasciar credere di essere incapace di lottare contro i vortici. Si volse al fiume, vide le oche, gettò la trota e si tuffò nell'acqua. Se la primavera fosse stata più avanzata e nel bosco ci fossero già stati gli usignoli, avrebbero celebrato per molte notti la lotta di Gripe con il fiume, perché la lontra fu più volte travolta dalle onde, ma senza perdersi d'animo risalì la corrente, davvero un'avventura perigliosa, degna di essere celebrata dai notturni cantori. Smire la seguiva ansioso, con lo sguardo, e finalmente la vide arrampicarsi sullo scoglio. Ma proprio in quella risuonò uno strido acuto e feroce. La lontra ricadde all'indietro nell'acqua e la corrente la rapì come un gattino cieco. Poi le ali delle oche sbatterono, disturbate per la seconda volta. Se n'erano andate in cerca di un altro rifugio. La lontra giunse finalmente a riva, non disse nulla. Si limitò a leccarsi una zampa anteriore e quando Smirre accennò a schernirla sbottò: «Non è che io noti male, caro Smirre. Stavo già arrampicandomi sullo scoglio quando un ometto mi si è lanciato addosso e con un ferro acuminato mi ha colpito alla zampa. Il dolore è stato tale da farmi mollare la presa e la corrente mi ha trascinata via». Ma non ebbe bisogno di continuare il racconto. Smirre era già lontano. Grazie alla luna, H trovò un altro rifugio che già conosceva. Aveva puntato ancora verso sud, passando sulla cittadina di Ronneby, non lontano dal mare, con i suoi stabilimenti balneari, le sue sorgenti termali, i grandi alberghi e le ville. Tutti edifici deserti durante l'inverno e gli uccelli, che lo sanno, vi cercano riparo dalle tempeste. Le oche si posarono su un balcone e, come al solito, si addormentarono subito. Ma non dormì Nils, che non osava più infilarsi sotto l'ala dell'ocone, dove non avrebbe udito né visto nulla. Non doveva pensare a sé, ma al benessere e alla sicurezza di Morten. Dal balcone, che era esposto a mezzogiorno, vedeva il mare che si insinuava in seni profondi entro la terra, formando isole e penisole di varia forma e grandezza. D'un tratto, dalla parte degli stabilimenti balneari, Nils udì levarsi un uggiolio stridulo e sinistro e al chiaro di luna scorse Smirre. Il volpone aveva seguito ancora una volta le oche, ma resosi conto che adesso era proprio impossibile raggiungerle, non aveva potuto reprimere un lungo latrato di disappunto. Il grido svegliò H, che riconobbe subito la voce. «Sei tu, Smirre, che giri di notte?» chiese senza neppure sporgersi. «Sì», rispose il volpone, «sono proprio io. Vorrei sapere se vi è piaciuta la nottata che vi ho preparato». Vuoi dire che sei stato proprio tu a mandarci contro la martora e la lontra? Perché negare un così bel tiro? Replicò Smirre. Voi avete fatto con me il gioco delle oche e io ho cominciato adesso a farvi il gioco delle volpi e non la smetterò finché una di voi sarà viva, a costo di inseguirvi per tutta la Svezia. Di un po', Smirre, credi che sia degno di te, armato di denti e di unghie, dare così addosso a povere creature indifese? Credendo che a far parlare così H fosse la paura, Smirre si affrettò a lanciare una proposta. «Se mi butti giù quell'ometto che avete con voi e che tante volte mi ha tenuto testa, considererò chiusa la partita e non vi darò più nessuna molestia». «Consegnarti Pollicino», insorse H. «Ma sei matto? Ognuna di noi, dalla più giovane alla più vecchia, sacrificherebbe volentieri la vita per lui». E Smirre: «Oh, visto che gli volete così bene, sarà lui il primo su cui trarrò la mia vendetta, te lo giuro!» H non rispose e Smirre lanciò ancora qualche lungo ululato, poi fu assoluto silenzio. Adesso era la risposta data da H alla volpe a tenere sveglio Nils. Mai avrebbe creduto di sentir dire da qualcuno che era pronto a rischiare la propria vita per lui. Non si poteva certo più affermare di Nils Holgersson che non voleva bene a nessuno. Karlskrona, sabato 2 aprile. Era una sera di luna piena. Il tempo era splendido, ma per tutta la giornata aveva infuriato la tempesta e aveva piovuto. Probabilmente, persuasi che il maltempo continuasse, gli abitanti di Karlskrona stavano tutti tappati in casa e la città appariva deserta quando H e il suo stormo vi arrivarono. Andavano alla ricerca di un rifugio sugli isolotti davanti alla città. Non osavano più restare sulla terraferma per timore di Smirre. Volavano altissime e Nils vedeva al di sotto il mare e le molte isole e gli sembrava tutto strano e irreale. Il cielo non era più azzurro, formava al di sopra della terra una volta di vetro glauco. Il mare era bianco come latte, percorso da piccole onde inargentate, e le isole sembravano tutte nere per contrasto. A un tratto Nils scorse qualcosa che lo spaventò moltissimo. Una grande isola rocciosa sparsa di enormi massi fra i quali brillavano granelli d'oro. Pensò che si trattasse della pietra fatata di Magl a Trolle-Ljungby, che i folletti a volte collocano di notte sulle alte colonne d'oro. Ma più ancora lo spaventò la folla di mostri inquieti che s'aggiravano attorno all'isola. Li si sarebbe detti balene o squali, e Nils si persuase che fossero spiriti marini radunati per dare l'assalto alla riva. E infatti sulla sommità dell'isola un gigante ritto in piedi tendeva disperatamente al cielo due lunghe braccia. E quale non fu il suo terrore quando s'avvide che le oche scendevano proprio verso quell'isola. «No! No!» prese a gridare. «Non dobbiamo assolutamente andare lì!» Ma le oche non gli diedero retta e ben presto Nils provò vergogna per essersi ingannato a quel modo. I grandi massi non erano che case, i puntini d'oro, lampioni e finestre illuminate, il gigante una chiesa con due campanili e i mostri marini, navi e battelli all'ancora. Che città poteva mai essere quella? Nils trovò la risposta scorgendo navi da guerra. Non poteva che trattarsi di Karlskrona, suo nonno materno. Era stato marinaio del re e gli aveva parlato del porto, del grande arsenale e delle molte cose che vi si potevano ammirare. Nils ebbe appena il tempo di dare un'occhiata alle torri e alle fortificazioni che difendono l'imboccatura del porto perché Akka si era già posata, imitata dalle altre oche, sul tetto di una chiesa. Era senza dubbio un posto sicuro per sottrarsi alla caccia di una volpe. E Nils si disse che quella notte avrebbe potuto trascorrerla sotto l'ala di Morten. Dormire gli avrebbe fatto bene e chissà che il giorno dopo non riuscisse a dare un'altr'occhiata all'arsenale e ai bastimenti. Ma non riuscì ad attendere tranquillamente il sorgere del sole. Aveva dormito forse 5 minuti che già scivolava da sotto l'ala dell'ocone e scendeva lungo il parafulmine e le grondaie. Si ritrovò sulla vasta piazza del mercato, deserta a quell'ora tra la cattedrale gotica e il municipio. Solo una figura di bronzo si levava su uno zoccolo, un omone grande e grosso, con una lunga marsina, in testa il tricorno, i calzoni corti e grosse scarpe, in mano un bastone che aveva tutta l'aria di saper adoperare, il volto arcigno, un gran naso a becco, un'orrida bocca. Che ci fa quello lì con il suo labbrone pendulo? Si chiese Nils che mai si era sentito così piccolo e miserabile. Cercando di darsi coraggio, infilò una larga strada che conduceva al mare. Aveva percorso pochi metri quando sentì passi alle sue spalle, così pesanti da persuaderlo che il colosso di bronzo fosse sceso dal piedestallo, facendo tremare la terra e le case. E Nils si disse che forse se ne andava a spasso per svagarsi. Certo, non poteva essere in collera con lui per quello che si era chiesto prima. Sofì aveva scherzato. Invece di proseguire diritto, prese per una traversa. Dove cercare rifugio in una città nella quale tutti gli usci sono serrati? Vide a destra una vecchia chiesa di legno nel mezzo di un ampio spiazzo erboso e vi si precipitò. Là dentro sarebbe stato al sicuro, ma mentre correva, scorse a un tratto in mezzo alla via che conduceva alla chiesa un uomo che gli faceva cenno e tutto felice si affrettò a quella volta. Quando gli fu giunto vicino, s'avvide che l'uomo se ne stava su un piedestallo ed era impossibile che gli avesse fatto cenno. Era di legno. Per un istante stette a fissarlo. Un tipo atticciato, robusto, il volto largo, roseo e fresco, capelli neri e lisci, una gran barba nera, in testa un nero cappello di legno. Indosso una palandrana di legno bruno, in vita una cintura di legno nero e ampie braghe di legno grigio, calze di legno, stivaletti di legno nero. Verniciato a nuovo luccicava al chiaro di luna. Ciò che ne sottolineava l'aspetto bonario, ispirando fiducia a Nils. Nella sinistra reggeva una tavoletta di legno con la scritta: «Voi che leggete questo cartello, abbiate di me pietà. Fatevi, prego, la carità, mettete un soldo sotto il cappello». Nils comprese allora che era semplicemente una cassetta per le elemosine. S'era aspettato qualcosa di meglio. Si ricordò che suo nonno gli aveva parlato di un uomo di legno molto amato dai bambini di Karlskrona e se ne capiva facilmente il perché. Il bravo uomo aveva un'aria da tempi andati, gli avreste dato ben più di 100 anni. Eppure appariva forte, robusto e allegro come si immaginano le persone di una volta. Ma riecco i passi pesanti. Dove rifugiarsi? Nils vide l'uomo di legno chinarsi verso di lui, stendendo la larga mano come per invitarlo a salirvi. Impossibile non avere fiducia. Con un salto Nils fu nel palmo. L'uomo di legno alzò adagio la mano, sollevò il cappello, vi infilò sotto il ragazzo, poi riabbassò il braccio. Ma già il gigante di bronzo gli stava davanti, battendo il suolo col bastone e gridando con voce tonante: «Chi siete voi?» Il braccio dell'uomo di legno tornò a salire con una rapidità che fece scricchiolare il vecchio legno. Le dita toccarono l'orlo del cappello ed egli rispose: «Sono Rosenbaum, vostra maestà, già nostromo a bordo del vascello di linea di Stringhetten, poi scaccino nella chiesa dell'ammiragliato e infine riprodotto in legno ed eretto nel cimitero come cassetta per le elemosine». Il ragazzo ebbe un sussulto udendo la parola maestà e si rese allora conto che il monumento sulla grande piazza raffigurava il fondatore della città, niente meno che Carlo XI in persona, il quale chiese: «Dite un po', avete visto un ragazzino piccolo così scorrazzare per la città? È un impertinente, se lo acchiappo gli do una buona lezione». «Col permesso di vostra maestà, l'ho veduto, sì», rispose l'uomo di legno. E Nils, che da sotto il cappello sbirciava il re attraverso una fessura, prese a tremare dallo spavento. Ma tirò un sospiro di sollievo udendo l'uomo di legno soggiungere: «Vostra maestà ha sbagliato strada, mi sembra diretto al cantiere». «Credete, Rosenbaum? Allora scendete dal vostro piedestallo, seguitemi e aiutatemi a cercarlo. Quattro occhi vedono meglio di due, Rosenbaum». Rispose l'uomo di legno con voce lagnosa: «Prego umilmente, vostra maestà, di lasciarmi dove sono. Ho l'aria fresca e sana perché mi hanno appena riverniciato, ma sono tarlato. Uno sforzo mi manderebbe in pezzi». L'uomo di bronzo non era però di quelli che ammettono repliche. «Che storie sono queste, Rosenbaum? In marcia, subito!» ordinò alzando il bastone e lasciando andare all'altro un forte colpo sulla spalla. «Visto? Non andate ancora a pezzi, Rosenbaum! In marcia, dunque!» E i due si misero in cammino per le vie di Karlskrona. Giunsero a un grande portale da cui si accedeva al cantiere. C'era un marinaio di guardia, ma l'uomo di bronzo non gli fece caso. Spinse il battente col piede ed entrarono. Davanti a loro un ampio porto suddiviso in bacini da pontili di legno e i bacini ospitavano le navi da guerra. «Da dove credete che convenga cominciare le ricerche, Rosenbaum?» chiese l'uomo di bronzo. «Ah, beh, un cosino come quello non può che essersi rintanato nella sala dei modelli», suonò la risposta. Su una lunga, stretta lingua di terra, che a destra si stendeva lungo tutto il porto, sorgevano alcuni vecchi edifici. L'uomo di bronzo si diresse a una casa bassa con piccoli finestrini e un altissimo tetto. Col bastone diede un colpetto all'uscio, che si aprì subito, e salì pesantemente un'antica scala dai gradini consunti. L'altro lo seguì in un salone pieno di piccoli bastimenti con tanto di attrezzatura perfettamente riprodotta. Erano i modelli delle navi costruite per la flotta svedese, intuì Nils. Ve n'erano d'ogni tipo: antichi vascelli di linea, con le fiancate irte di cannoni, alti castelli a prua e a poppa, gli alberi coperti da un viluppo di sartie e vele, piccoli guardacoste con banchi per i rematori, cannoniere senza ponte e fregate riccamente adorne e dorate, di cui si erano serviti i sovrani per i loro viaggi. Ma c'erano anche larghe e pesanti corazzate, con torrette e cannoni in coperta, di quelle ancora in uso oggi, e snelle torpediniere simili a lunghi pesci. Nils ebbe tutto il tempo di ammirare ogni cosa, perché l'uomo di bronzo, alla vista delle belle navi, aveva dimenticato il motivo della sua visita, e Rosenbaum, che era stato, secondo nostromo della Dristingheten, Doveva fornirgli mille spiegazioni, risalendo fino al 1809, l'anno del suo congedo. Sia lui che il re preferivano gli antichi bastimenti. Sembravano non intendersene troppo di corazzate moderne. Vedo, Rosenbaum, che di queste navi d'oggi non ne sapete nulla, disse il re. Passiamo a esaminare qualche altra cosa. Tutto mi interessa, Rosenbaum. E si era completamente dimenticato di Nils, che si sentiva perfettamente a suo agio sotto il cappello di legno. I due si misero a percorrere i grandi capannoni dell'arsenale, le officine dove si cuciono le vele, la fonderia dove si fabbricano le macchine e la carpenteria. Osservarono le gru a braccio e i moli, i grandi magazzini delle provviste, il parco d'artiglieria, la lunga corderia, la vasta cala deserta scavata nella roccia. Percorsero le gettate alle quali erano attraccate le navi da guerra, vi salirono a bordo. Tutto scrutando come due vecchi lupi di mare, borbottando, criticando, lodando, irritandosi. Finalmente entrarono in un ampio cortile coperto sotto un loggiato nel quale erano schierate le polene degli antichi vascelli di linea. Nils non aveva mai visto nulla di più strano. Tutte le figure avevano volti imponenti e terribilmente minacciosi, rispondenti allo stesso spirito combattivo delle grandi navi che un tempo ornavano, e si sentì più piccino che mai. In quella, l'uomo di bronzo disse: Rosenbaum, levatevi il cappello davanti a quelle figure. Hanno guerreggiato per la gloria della patria. L'uomo di legno, anche lui dimentico della ragione per cui si trovavano lì, obbedì, esclamando: Mi levo il cappello dinanzi a colui che ha voluto questo porto, che ha fondato l'arsenale e ricreato la marina in nome del re e che ha dato vita a tutto questo. Grazie, Rosenbaum, siete un bravo uomo, approvò il re. Ma che cos'è quel coso lì? Indicò Nils sul cranio nudo di Rosenbaum. Nils, però, non aveva più paura. Sventolando il berretto, gridò: Urrà! Urrà per l'uomo dal labbro pendulo! L'uomo di bronzo batté il suolo col grosso bastone, ma Nils non seppe mai quel che aveva intenzione di fare, perché in quella il sole si levò e subito l'uomo di bronzo e l'uomo di legno scomparvero come se fossero fatti di nebbia. Mentre se ne stava lì a cercarli con lo sguardo, le oche selvatiche decollarono dal tetto della chiesa, planando sulla città. Di lassù scorsero Nils e l'ogone bianco fendette l'aria per andarlo a prendere.